Quest'anno abbiamo lavorato su tanti modelli in Aleph e credo che adesso posso presentare una sintesi di questi modelli, che è rappresentata qua, da questo void. E potremmo dire che questa sintesi è una rappresentazione dell'ordine interno al posto del disordine. Cosa significa che c'è ordine interno alla nostra personalità? Quando le cose sono al loro posto, quando l'anima è al suo posto, quando Dio governa al suo posto, quando le parti interne sono al loro posto. Questo ci richiama quello che dice Henninger a proposito degli ordini dell'amore. Gli ordini dell'amore: ci deve essere gerarchia, ci deve essere parità tra dare e ricevere, e ci deve essere il fatto che tutti sono inclusi, non si esclude nessuno. Bene, nel mondo interno, così come nel mondo esterno e nella famiglia, non si può escludere nessuna parte. Non solo, questo non è sufficiente, occorre anche che ci sia un posto giusto per ciascuna parte. Se c'è ordine interno, allora può fiorire l'amore dentro di noi. E se c'è ordine interno, non subiamo più il disordine esterno. Ecco, questa è la sfida che appunto stiamo compiendo dentro Aleph, è proprio questa. Finché c'è disordine dentro la personalità risente di qualunque tipo di disordine esterno. Faccio un esempio molto concreto che viene dalla fisica acustica. Un pianoforte intonato, veramente intonato, se viene messo vicino a un pianoforte stonato e viene tenuto il pedale giù, quando si suona un tasto del pianoforte stonato, il pianoforte intonato non si muove. Nel senso che le corde vibrano solo, le corde del pianoforte intonato vibrano solo se viene suonata una corda intonata. Lo stesso avviene per la nostra personalità. Se siamo intonati dentro, non risentiamo più delle stonature fuori. E questo è un passaggio fondamentale. Spesso le persone dicono: ma come posso difendermi dal disordine, dalle aggressioni, da questo? Ci si difende creando ordine e pace al proprio interno. Questo è l'unico modo sensato. Bene, adesso vi faccio vedere quali sono, secondo noi, quest'anno, questo anno di ricerca, gli elementi essenziali che devono essere messi in ordine. Innanzitutto, in alto ci deve essere l'anima. L'anima di una persona cos'è? Andiamo a vedere qui in alto. Per anima intendiamo quella parte di noi che è interessata alle relazioni con tutto ciò che c'è. Che tipo di relazioni? Relazioni d'amore, non relazioni di potere o possesso. Ecco, qui vediamo l'asse, le due possibilità: amore, possesso o potere. Le relazioni di possesso e potere creano disordine, relazioni d'amore creano ordine. Bene, l'anima è ciò che ci connette con tutto ciò che c'è, e in primo luogo con chi? Con le altre anime dei nostri simili. Ecco, qui vediamo in questa rappresentazione l'anima nostra collegata alle altre anime e alle grandi anime. L'anima nostra entra in risonanza con le altre anime e con le grandi anime. Altre caratteristiche dell'anima sono l'unicità. Ogni anima è unica, ha delle caratteristiche specifiche. Già i greci parlavano di qualità interiore. Ognuno di noi ha una qualità specifica, ognuno di noi è un fiore diverso, è una pianta diversa, un animale diverso. E dà il suo contributo nel mondo, dai giusti semi, quando è veramente se stesso, come dice Nietzsche, diventa chi sei. Il nostro primo compito è riconoscere qual è la qualità anteriore, qual è la nostra specificità, la nostra partecipazione alla biodiversità spirituale. Nel momento che ci uniformiamo, che ci omologhiamo, noi stiamo tradendo noi stessi. Ok, queste relazioni d'amore, intense relazioni d'amore, devono essere rivolte a chi? Ho detto a tutti, e quindi al mondo esterno, ma in primo luogo al mondo interno. Il simbolo che noi usiamo per l'anima è il sole. È il simbolo dell'amore perché? Perché il sole irradia luce e calore dappertutto. Ma dov'è che c'è più caldo? Proprio nel centro del sole. Dove c'è più luce? Al centro del sole. Quindi noi possiamo dire di vivere nell'amore quando dentro di noi questa qualità dell'energia pulsa potente. Quando questo non avviene, diventiamo come pianeti, cioè abbiamo bisogno della luce del sole che venga da noi per scaldarci. Spesso chiamiamo queste relazioni d'amore, ma non sono relazioni d'amore, sono relazioni di possesso, cioè noi abbiamo bisogno di un'altra persona per scaldarci, per irradiarci. Quando avviene questo? Quando nella nostra personalità c'è disordine, una mancanza di ordine. Adesso scendiamo nei piani più bassi. Al centro della personalità troviamo, è sempre un modello, non è la realtà, ma sia ben chiaro, comunque è un modello utile, troviamo l'io governo, cioè quella parte di noi che avrebbe il compito di governare la pluralità interna, quella che Bleuler, maestro Jung, chiama l'insieme di tutti i personaggi che ci abitano, che sono centinaia, che sono migliaia, tutte le nostre parti interne. L'io governo dovrebbe essere un direttore d'orchestra, un coordinatore, un governatore, un direttore di comunità, un maestro di scuola, un buon genitore. Ecco. Bene, oltre al mio governo, vi dicevo prima, la nostra personalità è abitata da tante sub-personalità, personaggi complessi e così via. Ne individuiamo due in questo modello, fondamentali, che possiamo dire appartengono a quel modello, no? Che è la bilancia strutturale. Cioè, quando si verifica una inclinazione esagerata da un lato, c'è subito una compensazione dall'altro. Quando entriamo in depressione, cioè ci facciamo piccoli, c'è sicuramente una parte di noi che si fa grande. Quando ci facciamo troppo grandi, c'è una parte di noi che si fa piccola. Così possiamo osservarne come modello a sinistra la parte depressiva, quella parte di noi che dice non valgo, non sono abbastanza, sono insufficiente, non sono degno d'amore, e dall'altra la parte che invece dice no, sono gli altri che non sono degni d'amore, semmai io c'ho ragione, gli altri hanno torto. Queste due strutture, dentro cui possono poi esserci tutte le varianti delle sue personalità, ma queste sono due strutture di base, e possono essere dominanti o l'una o l'altra, oppure alternarsi. Seguendo un certo tipo di psicologia potremmo dire che chi si ritrova più da questa parte, cioè dalla sua personalità depressa, quindi considera se stesso in colpa, insufficiente, è più una struttura nevrotica. Chi invece si colloca più dall'altra parte, cioè che sono gli altri che semmai sono nella parte sbagliata, che sono in colpa e noi siamo ingiusti, allora siamo più nella struttura del disturbo di carattere. Noi chiamiamo queste due parti così convenzionalmente, la parte più depressa e la parte più narcisistica, ma solo per capirci. La parte depressa cosa fa? Compiace gli altri, cerca di andare incontro ai loro bisogni e quindi cosa accade? Che mentre fa questo per ottenere amore, al proprio interno genera l'opposto di sé, cioè l'altra parte che compensa, che dice no, gli altri mi devono, gli altri non fanno ciò che devono fare, e quindi mentre qui c'è la tristezza che guida, qui c'è la rabbia, qui c'è la paura, qui c'è la rabbia che viene tenuta a bada, perché se è al governo di più la parte depressa tiene a bada la rabbia, non la devo sentire o non la devo esprimere, se non indirettamente con le cosiddette aggressive. Bene. Ora, il compito dell'io governo qual è? È quello di governare. E se dentro una parte depressa, una parte narcisista piuttosto potente, che cosa significa? Punto interrogativo. Sono nato così? No. Sicuramente mi sono accadute delle cose, nella mia biografia ho imparato delle cose di famiglia, ho avuto degli esempi, ma se è cresciuta la mia parte depressa, o è cresciuta la mia parte narcisista, significa che il mio io governo è stato fragile, debole, non ha fatto il suo mestiere. Quindi vuol dire che il mio governo ha abdicato al suo compito. Quanto più il governo abdica al suo compito, tanto più le parti interne, questa e quest'altra, crescono. Allora potremmo dire che la parte depressa è una parte più piccola, è una parte che tende a lamentarsi, a farsi piccola e a voler avere dagli altri un po' di affetto. La parte narcisista è una parte che invece sia più grande, è più una parte, tra virgolette, adolescenziale, e che ha meno paura degli altri e si impone di più. L'io governo, quando abdica alla sua vera funzione, che è quella di guidare il paese, cosa accade? Che l'io governo entra nella maschera, cioè cerca di gestire queste parti senza riuscirci più di tanto. E il il suo adulto in realtà come si manifesta? Si manifesta in modo piuttosto distorto, cioè si manifesta attraverso il giudice interno. Ecco. Quindi potremmo individuare, il giudice interno vuol dire quella parte di noi che continua a categorizzare, etichettare e a dare giudizi positivi o negativi. Ora, proprio il lavoro con le costellazioni, questo modello di costellazione strutturale che poi utilizziamo regolarmente nel nostro lavoro, si vede come le persone attraverso questo modello entrino rapidamente in quelle che sono le loro problematiche e possano avere un'idea chiara di come uscirne. Come se ne esce, infatti? Se siamo in balia di una parte depressa o di una parte narcisista, è chiaro che la nostra vita è particolarmente impoverita. È come nelle costellazioni familiari, quando gli ordini dell'amore non sono rispettati, quando un genitore, per esempio, anziché sentirsi davvero in coppia con l'altro partner, e si allea con una parte, con uno dei figli, mentre l'altro magari si allea con l'altro figlio. Oppure quando uno dei due genitori ha ancora un legame con la propria famiglia di origine, quindi non è in grado di creare una nuova famiglia e gli ordini d'amore